quando è caduto Mussolini è cominciata la resistenza, e io sono, ero a Milano, a Torino, e ho partecipato alla resistenza del Partito d'Azione, che era un partito nuovo che si illudeva di nascere per negare l'esistenza dei partiti, in realtà era un partito anche lui come gli altri. Del Partito di Azione lei ha fatto parte insieme a molti altri uomini che sognavano anche un mondo nuovo. Noi sognavamo, eravamo molto critici verso il sistema democratico liberale che aveva portato al fascismo. Nello stesso tempo noi eravamo in qualche modo socialisti, perché aspiravamo a una diversa distribuzione della ricchezza e del benessere della gente. Quindi eravamo carichi di grandi idealità, ma abbiamo fatto la resistenza con grande impegno tra il 1943 e il 1945, e poi il Partito dell'Azione si è cancellato perché sono venuti i grandi partiti di massa